al fin di travoltar se in me speme non falli io me saudi ti trovo ancor Dio me saudì Dio me saudì Oh! cortese in vivo, trata di son barone, d'averlo pure gradito. Fermo è qui, il vedete? Che non è vero, il vero. A voi non un sol detto, si volga questo Alfredo. Non un detto, non un detto. Quattro, ancora hai vinto, sfortuna nell'amore, fortuna recca il gioco, è sempre vincitore. O vincerò stasera, e l'oro qua bagnato, o sciago dentro ai campi, ritornerò beato. Sarà? No. Barone, m'appellaste, siete sì gran fortuna che al gioco mi tentaste. Sì, la disfida c'è. La manca cento, un asso, un fante, hai vinto, il doppio sia, un quattro, un sette, ancora, pur la vittoria mia. Brava davvero, lo so. Più tardi la rivincita al gioco che vorrete. Seguiam gli amici. Oscia, sarò qual brave. Andiam. Ho sciagurato, scorda un nome che

accoglirmi. Prevenirvi volli una gioia improvvisa. Una cosa? Dicesti? Sì, oh signora. A te, a te vedessi. E vieni, e vieni, a prego, a prego. Palpito, si atama in pace, senza desistere, più non potrei. Ma sangue in vena, mai liberata, credo uccidere, non puoi di nuovo. Scorda l'affanno, donna volata, a me perdona, genitor. Io mi perdoni, l'aria sono io, ma solo amor dal dire in te. L'uomo debba l'angel mio, mai più dividermi potrà da te. Thank you. ben saprai. Ma Padre mio, e per non lasciarmi troppo rimorso, noi Insolito vigore